essere e benessere di Nicoletta Carbone. Benvenuti e buona giornata, noi siamo pronti, sono le 11.08, quasi 09, Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, ci siamo allora, siamo pronti per sentire i titoli del nostro sommario. La giusta dieta ci salverà o ci aiuterà a stare meglio? Albano si racconta a tutto tondo. Chi dorme guarisce meglio, la ricerca lo dimostra. Guardiamoci, diciamocelo tra noi, non siamo proprio nel nostro momento migliore, lo dico un po' in generale, siamo tutti un po' in sovrappeso, i nostri bambini purtroppo ci seguono a ruota, ogni giorno abbiamo qualcosa di cui lamentarci, la digestione difficile, la difficoltà a dormire bene, il nostro intestino fa i capricci e poi qua e là si accendono spie rosse per avvertirci che la pressione è alta, la glicemia borderline, il colesterolo fuori norma e il nostro giro vita diventa sempre più tondo. È tempo di cambiare, ragazzi, non è mai troppo tardi per tornare in forma e quindi per tornare a stare bene. Lo sappiamo che il sovrappeso è padre di una serie di piccoli e grandi problemi e oggi mi piacerebbe convincere almeno uno di voi a voltare pagina, a perdere qualche chilo. Se questo vi sembra una missione impossibile, sono certa che oggi vi ricrederete, perché vi metto a disposizione uno dei massimi esperti internazionali di alimentazione che il rapporto tra dieta e salute ha dedicato studi e progetti di livello internazionale, il dottor Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva alla Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano, che è qui in studio con me. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Dottore, se introduciamo più calorie di quelle che consumiamo, ingrassiamo, non fa una piega. Quello che sorprende è la relativa facilità, anche in termini di tempo, con cui si ingrassa e al contrario il tempo che si mette a dimagrire. Insomma, ingrassiamo molto rapidamente, ci vuole poco, però poi a buttare giù questi chili ci mettiamo tanto tempo, a volte non riusciamo neanche più. Insomma, i chili si affezionano, dottor Berrino, perché? Ma in realtà si ha questa impressione di fare in fretta, di ingrassare. In realtà no, ci abbiamo messo tutta la vita ad ingrassare e non è una cosa che... è veramente una cosa progressiva. E così anche quando si vuole perdere peso non bisogna avere quella fretta, no? Sì. Va bene, allora il mese prossimo vado al mare, allora in questo mese perdo 10 kg, no? È anche possibile farlo, no? Ma non è ragionevole e può anche essere pericoloso, no? Per cui bisogna mettersi nell'ottica di cambiare stabilmente lo stile di vita in modo da perdere progressivamente il peso di troppo e poi mantenere il peso forma. L'ideale, dottor Berrino, sarebbe mantenere il nostro peso forma, non ingrassare. Non ingrassare, certamente. Però, ecco, se si è grassi, c'è si molto può. Che si può fare. Allora, dottore, sicuramente ciascuno di noi sa se nel suo peso forma, ma c'è una formula molto semplice che permette di saperlo con precisione, è l'indice di massa corporea. La formula l'abbiamo già utilizzata più volte, la ripetiamo: peso in chilogrammi diviso altezza in metri al quadrato. Ecco, e ci sono poi, a seconda del risultato, noi sappiamo se siamo in forma, se non lo siamo, se anche rischiamo, perché più il numero di questa divisione aumenta, più le patologie aumentano, certo. Possiamo fare un esempio molto semplice? Sì. Immaginiamo una persona che pesa 100 kg. Sì. E supponiamo che sia alta 2 metri. Uso questi numeri per fare i calcoli semplici. Certo. Quindi l'indice di massa corporea sarà il peso in chilogrammi, cioè 100, diviso l'altezza al quadrato, cioè 2 per 2. Sì. Quindi 100 diviso 4. In questo caso viene fuori, no, 100 diviso 4 fa 25. 25 è il limite, una persona che pesa 100 kg e che è alto 2 metri, no, è al limite fra il normo peso e il sovrappeso. Si dice che uno è in sovrappeso se supera i 25. Si dice che una persona è obesa se supera i 30, no? Se l'indice di massa corporea supera i 30. Però è sensato pensare di stare abbondantemente al di sotto del 25, fra 18 e 25 è considerato normo peso, no? Ma è sensato stare attorno ai 20-21, insomma, come, no? In questo caso uno, quando uno ha già un indice di massa corporea di 24, in genere ha un po' di salvagente attorno alla vita, insomma, no? Qualche cosa di... Ma la cosa più importante è la circonferenza vita, perché a parità di peso il rischio di tante patologie, di tumori, di patologie di cuore, di patologie respiratorie, è maggiore se la circonferenza vita è grande. Anche le persone magre, ma sì, che hanno la pancia, no, hanno un rischio elevato. Quindi la cosa importante è mandare giù la pancia. E c'è un'indicazione di massima per le donne, no, è di non avere una circonferenza vita superiore a 85 centimetri. Sì, mentre per gli uomini? Per gli uomini è ammesso fino a 100, perché sapete, sono le donne che hanno il vitino. No? Sì. Gli uomini sono allora, fatti più squadrati. Allora, ai nostri amici da casa chiediamo di calcolare il loro indice di massa corporea, di prendere anche un centimetro, di misurarsi un po'. Perché prima si parlava di costituzione a pera, costituzione a mela, come distribuzione del grasso. È esattamente la stessa cosa, no? Infatti. La circonferenza vita sta per la costituzione a mela, che è associata a varie malattie, no? Che sono le malattie di oggi. 824 0024, preparatevi, raccontateci tutto, dateci i vostri dati, proveremo a buttare giù questi chili e soprattutto ci accaniremo sui chili che si distribuiscono nei punti sbagliati. Quindi attenzione ai chili che si distribuiscono nel giro vita. Lo diciamo per le donne, per cui abbiamo un trattamento di privilegiato, ma naturalmente lo diciamo anche per gli uomini. Se volete scriverci, 349-238-6666. Una mela al giorno. Nuovo giorno, nuovo ospite, direttamente dal Festival di Sanremo, un grande amico della nostra trasmissione, nonché un veterano del palco dell'Ariston. Saluto Albano, ciao Albano. Ciao, buongiorno a tutti. Albano, tu sali sul palco per la 13ª volta, tra l'altro in un anno dove sei stato in giro per il mondo, arrivato al numero uno di nuovo in Spagna con il tuo nuovo CD, ma insomma Albano, ci si abitua al successo, ci hai fatto un po' il callo, è sempre una cosa emozionante. Guarda, io intanto lavoro per il piacere di lavorare, nel senso che il lavoro che faccio è incredibile, piacevole, emozionante. Quando una cosa ti piace è come quando hai una meravigliosa donna e l'ami sia quando sta bene che quando è ammalata, insomma. A proposito di donne e di amore, la tua è una canzone struggente che rivendica il diritto all'amore anche quando è faticoso. Tu facevi appunto il confronto tra musica e una donna di cui sei innamorato. L'amore è sempre amore. È un brano che non ti fa girare dall'altra parte, insomma, intenso, bello, emozionante, impegnativo, e cantare col pathos, con l'anima, con tutti quegli ingredienti che abbelliscono sia il testo che l'emozione del canto. Albano, mi sembra che quando hai detto l'aggettivo impegnativo l'hai rimarcato, ti piacciono le sfide comunque, con te stesso soprattutto, immagino. Io direi di sì, perché la sfida vuol dire migliorarsi. La sfida vuol dire non adagiarsi mai sugli allori, la sfida vuol dire percorrere nuove strade, e questo l'ho fatto da sempre, fin dagli inizi della mia carriera. Basta guardarti e sentirti, questo te lo posso dire, io ti seguo, ma ci sta seguendo anche in silenzio, ha fatto penso fatica, Alberto Pellai, che ci accompagna nel corso di questa settimana come potenziatore emotivo, life coach, prenderà uno spunto da quello che ci hai raccontato per dare anche un'indicazione a noi che non saliamo sul palco di Sanremo, per in qualche modo aggiungere qualche cosa alla nostra vita di tutti i giorni. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, saluto Albano. Devo dire, è stata una bellissima chiacchierata la vostra, e secondo me la parola chiave è una parola che in questo momento va molto di moda anche nel mondo della psicologia, la parola resilienza, che vuol dire avere la competenza, la capacità quasi innata di saper non solo resistere alle avversità, ma di saper trovare sempre il proprio luogo, il proprio spazio, il proprio tempo, il proprio modo in ogni angolo della vita, in ogni posto in cui il mondo e la vita ti trovano poi come esploratore o come viaggiatore. Devo dire che tra l'altro, ascoltando un po' quello che dicevate e anche la storia di questa canzone, a me è venuto quasi in automatico di pensare a un film, uno dei miei preferiti, che si chiama In America, il regista Gene Sheridan, ed è proprio un film dove l'amore alla fine trionfa in mezzo a moltissime complessità, con delle emozioni molto potenti, molto cristalline. e quasi direi anche i nostri ascoltatori, che noi sentiamo gli artisti che parlano, che cantano, sappiamo poco di loro, ma Albano ha fatto proprio un lavoro anche di disvelamento di sé in un libro che si chiama Con la musica nel cuore, dove oltre a quello ufficiale vediamo anche proprio un po' l'uomo che si nasconde, la persona che c'è dietro al personaggio. Quindi con questi elementi abbiamo in mano un bel po' di cose per magari capire anche di più come sarà e che cosa farà sul palco di Sanremo. Albano, grazie per essere stato con noi. A presto e buon tutto sempre. Anche a te, buon tutto. Ciao. Ciao. Pronto soccorso. Siete pronti con la calcolatrice, il centimetro, il girovita? Dottor Berrino, sono già arrivati numerosi messaggi. Sono alto 1,82, peso 96 kg, girovita 92, quindi sono obeso ma corro pochi rischi. Ci saluta e ci ringrazia Fabio da Cuneo. Adesso non riesco a fare il calcolo a memoria, però chiaramente sei sovrappeso, insomma, questo e quindi delle raccomandazioni per ridurre questo peso te le possiamo dare. Ad esempio? Allora, ci sono le cose che sono scientificamente provate, che gli studi sono coerenti, ben indicati. Cioè, chi mangia i cereali integrali, cioè il riso integrale, il farro, il miglio, l'orzo, il grano saraceno, no? Ingrassa meno e riesce a dimagrire. Quindi basterebbe sostituire? Certamente. Chi mangia verdure dimagrisce. Chi mangia cibi pronti e fast food ingrassa, chi mangia grassi, in particolare grassi animali, cioè carni grasse, salumi, formaggi, ingrassa, e chi beve bevande zuccherate ingrassa. Quindi la regola è molto semplice e le conoscenze scientifiche sono clamorose, no? in questo purtroppo, campo. Purtroppo no? Vedono chiaro, non abbiamo scuse. Sì, vedono chiarissimo. E la cosa importante da dire, però la buona notizia qual è, no? È che i cereali integrali e le verdure sono buone, no? E si possono cucinare in un modo buono. Naturalmente non siamo abituati, no? Ma se impariamo a cucinarli si fanno dei piatti meravigliosi. È per questo che facciamo i corsi di cucina, no? Certo, e queste sono importanti. E tornare alla cucina mediterranea. La cucina mediterranea di una volta, naturalmente. Di una volta. Andiamo a Pavia. C'è Katia che ci aspetta, 824 0024. Sentiamo se ha fatto i compiti. Katia, buongiorno. Buongiorno, ahimè. Ho 46 anni, sì. Peso 76 kg, sono alta 1,64, giro vita non pervenuto. E il problema è questo, ho avuto un bambino 5 anni fa peso praticamente come quando ho partorito e ho sempre la fame della gravidanza, riesco a stare dietro 3, 4, 5 giorni, poi ahimè ho marito e figlio che sono magrissimi e non devono stare a dieta, io devo preparare. Certo. Sono stata anche al Niguarda a fare una bellissima visita, quello mi ha detto sterilizzi il frigo, e io quando ho testato questa faccenda mi hanno detto ma allora questi vogliono la mamma con loro o la mamma grassa, insomma, per cui sono molto disperata, anche se sto benissimo, non mi ammalo, ho una salute di ferro, però sono sovrappeso di 20 kg e non riesco a schiacciare il bottone come una volta. Dottor Berrino, quando dicevamo i chili si affezionano, è vero, come è vero, cozze, sì, sono vero, lì aggrappati. No? Il problema è che fare la dieta, nel senso di ridurre il cibo che si mette nella pancia, sappiamo bene che la gente non riesce a farlo più di tanto, perché hai fame, perché gli altri mangiano di più, perché comunque noi siamo programmati per riempirci la pancia. Perché una volta c'erano le carestie e chi aveva messo da parte un po' di grasso sopravviveva, chi invece era magro moriva durante le carestie. Quindi i geni che sono rimasti sono i geni che ci inducono a riempirci la pancia. Per cui la nostra strategia è quella di riempirci la pancia di cose che non ci fanno ingrassare, ma che ci danno soddisfazione. Cosa sono queste cose? I cereali integrali, i legumi, le verdure. E con pochi grassi. E quindi tutto il trucco è di sapere cucinare queste cose con pochi grassi. È quello che insegniamo alle signore del progetto Diana che vengono per la prevenzione del cancro alla mammella. Ricordiamolo allora, già che l'avrei fatto in corso di trasmissione, il progetto Diana è un progetto di cui abbiamo parlato più volte proprio con il dottor Berrino, è rivolto alle donne che hanno avuto un tumore alla mammella senza che non hanno avuto recidive e che attraverso proprio lo stile alimentare, lo stile di vita, giusto dottor Berrino? No? Che noi riteniamo che si possa ridurre la frequenza di recidive modificando lo stile di vita, no? E abbiamo parecchi forti indizi in questa direzione e allora vogliamo fare un grande studio a cui collaborano importanti istituti. A Milano collaborano i due grandi istituti del cancro, l'Istituto Nazionale dei Tumori, l'Istituto Europeo dei Tumori, e poi ci sono collaboratori in altre città, a Torino, a Napoli. L'elenco lo sapete sempre a disposizione sul nostro sito, sono partiti in altre città altri studi, vero? A Palermo ad esempio. A Palermo, a Napoli. Adesso chi dobbiamo chiamare? C'è una città in particolare che non ha risposto all'appello, dottor Berrino? No, ci sono vari centri, lo studio dovrà partire prossimamente anche a Potenza e a Perugia. È partito in Abruzzo anche, al centro Giunone di Avezzano, e sta funzionando molto bene, nel senso, la cosa molto bella è che le signore che partecipano sono molto contente, nel senso che è un'ottima occasione di incontro e poi di scambio. Cominciano ad accorgersi che stanno meglio. Andiamo a Varese, ci aspetta Francesco, 824 0024. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, salve, buongiorno anche al dottor Berrino, salve. Buongiorno. Volevo così presentare il mio, virgolette, problema. Ho 52 anni, sono alto 1,80 m e peso 140 kg. Ecco. Di diete ne ho probabilmente provate, senza esagerare, almeno 50. Il risultato è solo momentaneo. Poi quando raggiungo il peso, tra virgolette, ferma, cioè 110, 108, 110 kg, 105 kg, un pochino, poi onestamente mentalmente cedo, cioè probabilmente scatta qualcosa che mi porta a ritornare quello che sono che, oggi. Certo. Ho chiesto aiuto anche ai dottori che mi hanno seguito, loro dicono bisogna uno sforzo di volontà, tutto quello che però probabilmente non ho abbastanza, sforzo di volontà. Chiedevo se ci fosse un gruppo, cioè un qualcosa che sostenga. Anche perché Francesco ha tanti chili da perdere, dottor Berrino. Sicuro, certo. Chiaramente qua andiamo su un'obesità che è quasi patologica, insomma. E la cosa importante è che lei non deve dire non ho abbastanza forza di volontà. Nessuno avrebbe la forza di volontà per mettersi a dieta riducendo le quantità che uno mangia per poter tornare giù di 40 kg. La cosa da fare è di prendere la cosa con determinazione, sì, certamente, ma non con la volontà di fare la fame. Non bisogna fare la fame, bisogna riempirsi la pancia di cibi che non ingrassano, no? Il che vuol dire, scusate se mi ripeto in un modo così un po' ridicolo, no? Il che vuol dire verdure e cereali non raffinati, cibi ricchi di fibre e ricchi di acqua, no? Per cui con una bassa densità calorica. Quindi senso di sazietà, non soffriamo la fame, riempie. Dobbiamo riempirci, perché altrimenti non ce la facciamo, no? E bisogna masticare molto, perché più si mastica, più aumenta il senso di sazietà. E allora ce la si può fare. E naturalmente è difficile, perché il mondo va in un'altra direzione, perché se vai fuori con gli amici non trovi niente al ristorante, perché non trovi cereali integrali al ristorante, non trovi neanche le verdure, no? Oppure le trovi con una quantità di grassi indecorosa, no? E questo è il problema grosso, no, del mondo in cui, certo, viviamo, no? Per cui uno deve organizzarsi in famiglia da solo, no? Per cucinarsi, effettivamente. Però non mettiamoci nell'obiettivo di fare la fame, perché falliremo. E soprattutto fallisce chi fa una dieta dietro l'altra, il famoso effetto yo-yo. Abbiamo molti sms di ascoltatori che ci dicono: sono alla decima dieta, le ho provate tutte, ogni mese sto a dieta, poi riprendo. Sembra che poi i chili ritornino ancora più di prima, no? Un effetto... Sapete, si dice che i nutrizionisti sono veramente i più fortunati di tutti, perché non perdono mai i clienti. Lo fanno dimagrire, ma quello ringrassa. Allora va da un altro nutrizionista, lo fa dimagrire e poi ringrassa. Una congiura, no, quindi. È una congiura. Sì. Proveremo allora se tra di voi c'è qualcuno che proprio vuole dimagrire. Abbiamo visto quali sono gli alimenti da sostituire, o meglio da inserire, per non patire la fame e per continuare, per darsi proprio una regolata, un cambiamento. Oggi ci occupiamo della vostra pancetta. 800 24 0024. Dai messaggi che arrivano al 349 238 6666, sto leggendo, però basta guardarci, che è un po' un male comune e soprattutto è un rischio per la nostra salute. Oggi insieme al dottor Berrino cercheremo di capire come si può buttare giù, perché la pancetta rappresenta un rischio per la nostra salute, non è solamente qualcosa che ci danneggia esteticamente. Adesso però andiamo a sentire le ultime novità che arrivano dal mondo della ricerca e della medicina e poi torniamo subito dopo insieme. GR Salute. Per il tumore al fegato ci sono nuove opportunità terapeutiche che permettono di tenere sotto controllo la malattia, che oltre ad essere una delle più diffuse al mondo è in sensibile aumento negli ultimi anni. I medici puntano sui trattamenti loco-regionali, concentrati cioè nella zona in cui si manifesta il tumore, in questo caso il fegato. Professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna al Policlinico Gemelli di Roma. Vi sono tre terapie, le cosiddette terapie loco-regionali. La prima si basa sulla radiologia interventistica, la chemioembolizzazione, la seconda e la terza si basano soprattutto sulla guida ecografica e quindi un ecografista è in grado di trattare questi pazienti. Una terapia col calore, la cosiddetta termoablazione, o una terapia a base di alcol. Sappiamo che l'alcol è in grado di bruciare i tessuti, la terapia si chiama alcolizzazione. Un'integrazione di queste tre terapie determinate e gestite dall'epatologo insieme al chirurgo e, quando è necessario, il trapiantatore di fegato, fanno sì che questo tipo di malattia si possa gestire in maniera estremamente efficace. Dormire potenzia la risposta immunitaria, che una volta attivata si fa dormire più a lungo, rendendo però il sonno più frammentato. I ricercatori scoprono i meccanismi e le ragioni di queste modificazioni. Professor Luca Imeri, della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano. 10 anni di ricerche ci hanno permesso di scoprire questa relazione reciproca tra sonno e sistema immunitario. Il sonno potenzia la risposta immunitaria e questa, come diceva lei, una volta innescata ci fa dormire più a lungo. Questo lo sappiamo tutti noi quando abbiamo un raffreddore, un'influenza o qualche condizione di questo tipo. Il nostro sonno però anche cambia. Dormiamo più a lungo, ma il nostro sonno è più frammentato e facciamo anche un po' meno di sonno REM, quello di solito in cui si dice che noi sogniamo. Tutto questo noi pensiamo possa servire a farci sviluppare meglio la febbre, che è qualcosa che, al contrario di quanto di solito si pensi, fa bene, perché ci aiuta a liberarci degli agenti patogeni. Dottor Berrino, torniamo a noi e ai nostri chili di troppo. Lei ha già dato delle indicazioni. Inserire nella nostra dieta i cereali integrali e le verdure sono buone e questo ci fa avere un senso di sazietà, quindi non patiamo la fame e possiamo continuare nel lungo periodo a sposare questo stile alimentare. Ma ci sono persone, i nostri ascoltatori, che hanno provato questa strada ma in qualche modo hanno qualche difficoltà. Le leggo ad esempio uno dei tanti messaggi, uno che ci manda Sara. Ci scrivo: ho fatto il vostro calcolo e sfioro il 30. Zona rossa, dottor Berrino. Zona rossa. Zona rossa. Da quando sono vegetariana ho noia a mangiare, i dolci la fanno da padrona. Ora mi regalo la ciclette. Un eccesso di fibre mi causa problemi a causa del colon irritabile. Che fare? Allora, in queste condizioni io come faccio a seguire i suoi consigli? Allora, da un lato bisogna dire che i vegetariani non necessariamente mangiano bene, no? Perché poi ci sono i vegetariani che mangiano comunque uova, latte, formaggi, no? I formaggi sono molto ricchi di grassi, fanno ingrassare, no? Ci sono vegetariani che mangiano una quantità di zucchero, no? Che è perfettamente vegetale, che bevono Coca-Cola, Pepsi-Cola, eccetera, no? E spesso poi si usano come cereali, quei cereali per la colazione, no? Sì. Io non parlo di cereali per la colazione, eh? Cereali per la colazione sono nel 90% dei prodotti che ci sono al supermercato, sono delle porcherie, no? E spesso sono fondamentalmente perché sono quasi sempre zuccherati. Sì. E a volte c'è scritto senza zucchero aggiunto, ma voi leggete molto attentamente perché ci sono, c'è senza zucchero, ma c'è dentro il destrosio, che è glucosio. Oppure c'è lo sciroppo di malto di cereali, che è glucosio, lo sciroppo di manioca, che è glucosio. Oppure ci sono una quantità di porcherie. Però sono buoni. Ma sono molto più buoni se ve li fate voi. Se voi prendete dei fiocchi di avena e ve li mescolate con un po' di uvetta sultanina, con qualche nocciola, con qualche mandorla tritata, no? Vengono dolci. E vengono naturalmente dolci, no? E non vi fanno questo sovraccarico di calorie che sono questi prodotti confezionati. State attenti in particolare quando c'è scritto sciroppo di glucosio e fruttosio. Sciroppo di glucosio e fruttosio ormai lo si trova dappertutto, no? È una delle principali cause dell'epidemia di obesità che c'è negli Stati Uniti. E però uno legge quello e non capisce che è zucchero. Certo. No? Quindi per cui la dieta vegetariana non è sana di per sé, no? Deve essere con le fibre, ma naturalmente la signora ha problema del colon irritabile. No? Certo, e allora che ma allora la soluzione è molto semplice, si guarisce il colon irritabile. Come? E per guarire il colon irritabile bisogna mangiare i cereali integrali, ma preparati in modo da ridurre la quantità di fibre. No? Uno può per esempio fare la crema di riso integrale. Guardate che la crema di riso raffinato non ha degli effetti curativi. Il riso integrale ha degli effetti antinfiammatori e degli effetti veramente curativi sull'intestino, ma se è troppo ricco di fibre può irritare quando c'è un colon irritabile. Quindi si fa cuocere molto molto il riso integrale, poi lo si passa per togliere un po' di fibre. Col passino? No? Col passino. Quello che con cui si fa la purè di patate? Cioè, esattamente. Lo si può insaporire, no? Lo si può fare una cosa dolce, come cuocendogli assieme una manciata di uvetta sultanina, oppure una cosa salata, cuocendola assieme con delle cipolle soffritte a lungo in modo tale che siano ben appassite, insomma, oppure quando uno si appassiona la mangia così da sola. La crema di riso integrale guarisce le irritazioni del colon, guarisce le colite, è molto utile anche per le coliti gravissime come sono le coliti ulcerose, no? E poi conviene ridurre le proteine animali, anzi eliminare le proteine animali, perché le proteine animali irritano molto il colon, sono troppo ricche di zolfo e lo zolfo produce dei gas tossici nel nostro intestino che irritano la mucosa. Invece vanno bene un po' di proteine vegetali, ma la cosa che io raccomando in particolare è la zuppa di miso. Sapete questa zuppa che si mangia quando si va al ristorante giapponese? Sì. No? Perché il miso è un prodotto ricco di proteine, ma sono già digerite dalla fermentazione, no? Quindi nutre e risana. E per cui, vabbè, poi ci sono altre cose da fare, ma in linea di massima questi sono due principi. Ma intanto io la ringrazio perché ci ha dato proprio delle indicazioni concrete. Allora, colite... La colite si guarisce. Si guarisce. Basta mettere nel piatto le cose giuste. Basta mettere nel piatto. E per i dolci, che era l'altro punto che sollevava, no? Anche qua naturalmente, i dolci bisogna farseli. I dolci bisogna farseli e allora dipende se uno ha... la colite, allora si fa un buonissimo dolce al cucchiaio senza zucchero. Se uno non ha la colite, invece si fa un dolce con le fibre, no? Quando facciamo queste tè della prevenzione all'Istituto dei Tumori, ogni primo mercoledì del mese offriamo una tazza di tè alle 6 del pomeriggio e parliamo di prevenzione in generale. E offriamo anche un biscottino oppure un dolcetto, no? Tutti invitati volendo. Siete tutti invitati. Va bene, tutti invitati. Va bene. Ci piace anche essere invitati, ci sentiamo importanti. Questo dolcetto in modo molto rapido. Andiamo a Rovigo, ci aspetta Mauro. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Allora, niente, allora io ho 38 anni e da 10 mesi ho messo su 5-6 kg sull'addome e nonostante le diete, una dieta equilibrata, facendo sport, facendo movimento... Forse anche a causa del mio lavoro faccio il rappresentante, non riesco a togliermela più. E il rappresentante spesso mangia fuori, no? Ha una vita sedentaria, purtroppo. Stai sempre seduto in macchina e mangi fuori, e questo è un problema. E qui la soluzione è drammatica, ma la soluzione è portarsi dietro da mangiare. Io viaggio tantissimo e sempre più mi porto dietro da mangiare per salvare qualche ristorante. Quello che a Milano chiamano la schiscetta. La schiscetta, esattamente, la schiscetta. E Mauro nella sua schiscetta che cosa deve portare? Noi abbiamo detto occhio alla pancetta, vi diciamo come buttarla giù. Ma come si butta giù la pancetta? Qualche indicazione l'abbiamo l'ha data lei, giustamente. Guardate che la pancetta, quando uno è grasso, la pancetta è la prima che va giù, no? Cioè, è più difficile mandare giù il resto. Mandare giù il resto, no? Perché non è difficilissimo mandare giù la pancetta, no? Nella schiscetta bisogna mettere, no, l'avanzo del riso integrale con i legumi e con le lenticchie che si è preparato la sera prima, no? E se uno ha l'occasione di scaldarselo meglio, adesso che fa caldo uno può mangiare anche un'insalata di riso, riso integrale naturalmente, no? Ed è masticandolo molto bene. No? Ecco, masticandolo molto bene, ma questo progetto pancetta, quanto questa conversione, perché proprio dobbiamo cambiare il nostro stile alimentare, dottor Berrino, dopo quanto tempo vediamo i primi risultati? Perché non è facile passare da una dieta quella certo, normale nostra all'integrale, ai legumi. Facile. Si deve fare, guardate, gradatamente. Nel primo progetto di Ana che facevamo con queste 50 signore in menopausa, e molte delle signore in menopausa hanno la pancetta, no? Anche quelle magre, no? Dopo 2 mesi, che questi signori hanno faticato un po' perché proponevamo una dieta diversa da quella a cui erano abituate e spesso a casa dovevano fare la cucina diversa per il marito o per i figli, no? Ma dopo 2 mesi si sono accorte che mettevano la gonna che era nell'armadio da 5 anni, no? E questo le ha motivate, per cui abbiamo avuto una partecipazione eccezionale per i 6 mesi dello studio, no? E abbiamo visto degli effetti metabolici e ormonali importanti. Quindi chi cambia ci guadagna. E in un paio di mesi già si vede l'effetto. Andrei subito al nostro consiglio di lettura e poi sentiamo Renato che ci chiama da Pescara. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa un libro che si intitola Il tempo incerto, antropologia della menopausa. Questo sarà anche il tema della puntata di domani. Se volete ricevere questo libro a casa, dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it, mettete il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono, mi raccomando. In collaborazione con IBS.it. Renato! Buongiorno! Come sta? Al centimetro, che cosa ci dice di lei? Bene, bene, no, io ho già ascoltato tutto per mangiare dal dottor Berrino, che si deve mangiare i cereali integrali, verdure, e volevo dire pure i passati di verdure. Certo, vanno certo, bene. Certamente. E togliere di mezzo i cereali della prima colazione, perché so tutte una buona parte. Quelli già pronti, zuccherati. Si trova qualcosa di buono, è anche in quel settore. Certo, l'importante lì, l'indicazione del dottor Berrino è l'etichetta. Bravo, non è che li buttiamo tutti nella spazzatura. No, bisogna saper leggere. Ci ho messo un no, quindi. Lei fa prima. Ecco, faccio così. Poi la crema di riso, che si deve far cuocere molto. Renato, praticamente lei adesso deve andare in cucina, perché questi sono i buoni propositi. E poi la vogliamo vedere all'opera, Renato. Vabbè, volentieri. La dieta mediterranea va bene? Certo, la dieta mediterranea di una volta, Non quella che si fa adesso nel meridione, perché i meridioni sono più grassi che nel settentrione oggi. Perché esagerano con lo zucchero e con i grassi. È vero. Renato, se hai sentito, punto sul vivo. Renato, perché la sua pancetta come sta? È morbida, tonda, com'è? No, morbida. Ma qualche chilo in più, ma anche perché normalmente mangio sempre fuori, cerco di stare attento comunque. Poi a Pescara si mangia benissimo. Si mangia bene. Secondo me anche il dottor Berrino avrebbe difficoltà a trattenersi. Allora, Renato. Mangiate il pesce a Pescara, avete un ottimo pesce. Ottimissimo. Senta, Renato, il dottor Berrino può darle un aiuto, oppure lei ha ripetuto per filo e per segno la puntata, ha fatto un magnifico riepilogo, la chiamo tutti i giorni, Renato. Stavo ascoltando e mi sono segnato tutto, se c'è qualcos'altro che mi può dare, se che quante volte, non so, la settimana pesce azzurro va bene? Certo, il pesce azzurro è quello che va meglio. Pesce azzurro va bene, la carne meno se ne mangia meglio è? Meno se ne mangia meglio è, certo. Bravissimo. Renato, ma sogno. esatto, ma lei è perfetto, è l'ascoltatore ideale. Io volevo invece farle una domanda che mi, leggendo degli sms mi è venuta in mente. Ci sono le verdure, noi diciamo mangiate verdure, saziano, ci nutrono, non ingrassano, hanno un apporto calorico ridotto e quindi sono loro le protagoniste un po' della nostra tavola, soprattutto per chi vuole fare questa conversione ad uno stile alimentare più sano. Ma ci sono verdure verdure? Certo. Alcune, come mi chiede un'ascoltatrice, sembra che stimolino di più il metabolismo, è vero? Come i broccoli o... Sì, sì, ci sono alcune verdure che sono particolarmente indicate per chi vuole dimagrire e delle verdure non indicate, quelle non indicate sono le patate, Le patate fanno ingrassare. Mentre invece i broccoli e i legumi, anche perché hanno delle azioni, se volete, che chiamiamo antimetaboliche, no? Che riducono un po' la capacità di assorbire i nutrimenti, no? E quindi sono particolarmente raccomandati. Tutta la famiglia delle crocifere, che sono tutti i cavoli, il cavolo cappuccio, il cavolo verza, il cavolo fiore, e anche le rape, i rapanelli, il daikon, no? E la rucola, insomma, tutta questa famiglia ha delle proprietà metaboliche particolarmente interessanti che sono utili per chi vuole dimagrire. E quindi l'elenco noi continuiamo a segnare, molti ascoltatori ci chiedono ma c'è un sito internet dove sono pubblicati i consigli alimentari del dottor Verrino, ma come facciamo? Però c'è anche Nello che ci scrive ma che brutta vita per stare bene, andiamo a Daniele. Allora commentiamo subito quest'ultima cosa, no? Regalatevi un corso di cucina. No? Regalatevi per esempio un corso di cucina macrobiotica, se ne fanno un po' dappertutto, a Milano ci sono vari centri dove si fanno, proprio per capire quale alto livello di gastronomia, no, si può ottenere cucinando i cibi integrali e le verdure nel modo giusto, no? Perché se uno ci si mette da solo le prime volte viene una mappazza, no? e ci rinuncia, no? Ma se invece lo sente preparato per esempio dai nostri cuochi che sono bravissimi, no? A Milano ci sono i cuochi della Sana Gola anche che fanno delle cose molto buone, no? E poi comunque in giro per l'Italia ci si aprono nuovi orizzonti e allora ci si aprono nuovi orizzonti, noi si capisce che le cose sono buone e anche i dolci senza zucchero, senza latte, senza burro, senza uova che facciamo sono molto buoni, sono anche molto rapidi da fare. Andiamo a Vicenza, anzi nella provincia di Vicenza abbiamo Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Racconti, eccomi. Allora, senta, io chiamavo per fare due domande, diciamo, veloci al professor Berrino. Sì. Che sono queste. Io sono attento, diciamo, a queste cose perché sono uno sportivo, no? Problemi di linea non ne ho. Spiocciando un po' in internet, guardando, come si dice da noi, ho trovato un sito di un collega del professore che mi sembra dovrebbe essere un medico sportivo che... Che insomma è stato veramente Daniele, ottimo, noi siamo quasi in chiusura. Se arriva la domanda, così il dottore le risponde. Guardi, allora, questo ho trovato due articoli in merito a due aspetti che sono di solito poco di cui si parla poco. Il primo è l'indice di sazietà dei cibi. I cibi vengono messi a confronto allora secondo del loro indice di sazietà. Il secondo è una cosa che riguarda, diciamo, il fatto che le bibite senza zucchero, ad esempio, ce ne sono un sacco adesso oggi in commercio, in realtà hanno un effetto più negativo che positivo per l'organismo, perché... Vere tutte e due le cose. Allora, grazie Daniele, mi scusi se sono così spiccia, ma do la parola al dottor Berrino perché noi abbiamo un minuto prima di chiudere. Sono vere entrambe le cose, no? Ci sono proprio quello che a noi interessa sono proprio i cibi ad alto indice di sazietà, che sono quelli che abbiamo menzionato, cereali, legumi, verdure. E poi è vero che anche le bibite senza zucchero sono sempre più frequenti, gli studi mostrano che sono associate comunque alla sindrome metabolica, sono associate... Non è ancora chiaro se sia tutta colpa loro o colpa delle cose che ci mangiamo assieme, delle perché patatine questo, che prendiamo assieme alla Coca-Cola senza zucchero, tanto per intenderci, no? Però questi dolcificanti artificiali, molti dei dolcificanti artificiali hanno un effetto di aumentare l'appetito, per cui noi sconsigliamo di bere queste cose, insomma. Allora, beviamo l'acqua, che è la cosa più buona del dottor mondo. Berrino, lasciamoci con questa promessa. Innanzitutto io vi ricordo il progetto di Anna 5, andate sul sito, sul dedicato sito dell'Istituto dei Tumori di Milano. Noi abbiamo messo naturalmente il link, non solo a Milano, ma ci sono tante città, l'elenco lo trovate sul nostro sito. Questo è un messaggio che ci tengo molto a darvi per le donne che hanno avuto un tumore al seno e quindi possono essere seguite e educate ad un nuovo stile di vita. Questo. La seconda cosa, dottor Berrino, tanti buoni propositi arrivano dai nostri ascoltatori, tante richieste di invitarla nuovamente, quindi ci sentiremo e ci vedremo presto con nuovi consigli. Grazie al dottor Berrino, grazie a voi che siete stati con noi, vi aspetto domani dopo il GR delle 11, intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.